Brevissimamente, siccome l'argomento ritengo sia non solo interessante ma imprescindibile, soprattutto in periodi come questi, insomma, di sicurezza del lavoro, di salute dei lavoratori, se ne parla sempre meno, è relegato anche negli ambienti sindacali, è relegato se non in ultima fila quasi. E quindi intanto la sollecitazione a proseguire su questo tipo di argomento, illustrando, spiegando, anche documentando, insomma, situazioni particolari. E io in questo senso volevo suggerirvi una riflessione che è di questo tipo, e cioè che mentre i processi di sviluppo dell'industria, diciamo del capitalismo in generale, hanno avuto molta attenzione al perfezionamento dei prodotti, intendendo con questo sia soprattutto la qualità dei prodotti e la loro diversificazione, insomma il loro miglioramento sotto tutti i punti di vista, estetico, prestazionale, eccetera eccetera, che ha avuto una forte impulso da quando il concetto di quality control, quality assurance, cioè controllo della qualità, poi diventato anche una favola mediatica internazionale con i discorsi sulla qualità totale, a che cosa puntavano? Puntavano al miglioramento del prodotto finale sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto all'eliminazione dei difetti. I giapponesi vantarono per lungo tempo, poi sono stati sbugiardati anche, e lo sono tuttora, sentendo le notizie che un giorno la Toyota, altro giorno un'altra casa giapponese richiama le vetture perché hanno dei difetti e devono sostituire dei prezzi, cioè la qualità totale è uno slogan. Ma a parte questo, questo innesto tra una specie di filosofia del processo produttivo, non del lavoro, del processo produttivo, e la produzione materiale vera e propria, ha tirato fuori, diciamo così, messo in evidenza che il capitalismo si preoccupa di procedurare, spiegare e ottimizzare i processi lavorativi, non si preoccupa affatto di ottimizzare i processi lavorativi dal punto di vista della salute, cioè di fare in modo che quel processo lavorativo sia anche esente da rischi per chi ci lavora sopra. Quindi la parte interessante è che però, vi dico anche questo, i sindacati tradizionali hanno sempre voluto evitare, di fronte ovviamente alle impostazioni del patronato, quindi con una facilissima arrendevolezza, poi l'hanno tolto proprio di mezzo, e che qui non si vuole mettere in discussione il processo lavorativo, perché la pericolosità del lavoro sta anche, il lavoro è pericoloso in quanto tale e fa male, ma sta anche nel come si lavora, nel come il processo lavorativo è sviluppato. Ora, il capitale l'ha migliorato solo dal punto di vista della qualità del prodotto finale, non curandosi, anzi ignorando completamente le conseguenze sul lavoro, quindi sulle persone. E questo aspetto andrebbe ripreso non solo come, diciamo così, analisi, ma anche questo sarebbe importante di questi tempi, ma anche come, ovviamente, come iniziativa, cioè l'aspetto di dire: voi altri vi preoccupate della qualità del prodotto perché questo, il brand, il marchio, tutte queste cose, e l'immagine e così via è preziosa, ma se poi questi processi producono, come si è visto pure in Cina con la fabbrica dei suicidi, migliaia e migliaia di malattie, morti, incidenti eccetera eccetera, non frega niente a nessuno, tutto passa sotto silenzio e quello che conta è l'immagine finale e le prestazioni del prodotto. Quindi ecco, spiegare a tutti quanti, agli ascoltatori e ascoltatrici, che dietro di questo c'è veramente l'attacco alla salute delle persone, insomma, a chi ci lavora eccetera eccetera, anche perché quelle procedure sono esclusivamente finalizzate, le procedure di lavoro, bisognerebbe prenderle, analizzarle, quando si dice allora questo pezzo passa da quel banco a quella macchina, così così così, ogni mossa può implicare un rischio per chi la fa, e siccome è ottimizzata solo dal punto di vista della produttività e della qualità del prodotto, certamente a rimetterci è la salute del lavoratore. Ecco, volevo dirvi questo, spero che possa esservi di interesse, insomma. In verità, diciamo, questa è una riflessione secondo me molto importante. Un po' è quando prima sono intervenuto col compagno di Medicina Democratica, provavo a, diciamo, dire questo sostanzialmente, che secondo me c'è un'esigenza di provare a ragionare su queste tematiche, probabilmente uno perché se ne parla veramente poco, se ne parla solo quando magari siamo davanti a casi, a tragedie vere e proprie o a omicidi proprio sul lavoro, e se magari ci ricordiamo lì, però poi finito quel momento ce ne ridimentichiamo, e probabilmente oggi anche dai lavoratori e lavoratrici probabilmente potrebbe essere una cosa più sentita anche delle 100 euro in più in busta paga, piuttosto che insomma di qualche piccolo miglioramento contrattuale, cioè nel senso che secondo me evidentemente una tematica riguarda tutti i lavoratori. Come insomma si capiva benissimo dalla discussione, dal dibattito che stavate sviluppando stamattina, anche la 626 e tutte le altre leggi sulla sicurezza, per restare all'Italia, ma non è che poi in altri paesi sia così diverso, si preoccupano della sicurezza dei lavoratori solo da un certo punto di vista, che è quello per esempio la sicurezza dei luoghi di lavoro, che di per sé certe volte non vuol dire quasi niente, cioè è più importante andare a analizzare non il magazzino se è fatto in un certo modo eccetera, ma come si lavora dentro quel magazzino, cioè come le persone sono costrette a fare certi movimenti, a prendere certi pezzi in certe posizioni, a stare sotto certi macchinari. Quindi questa è la procedura, e queste sono procedure tecniche che va già bene se si trovano, perché certe volte è proprio il caporeparto che ti dice devi fare così, così e così, che non hanno nessuna validazione dal punto di vista della sicurezza del lavoro, rispondono ad altri criteri, come dicevo prima, e la legge 626 e tutte le altre su questo aspetto non c'entrano proprio, perché i padroni hanno detto questa è roba nostra, come si lavora e quanto si lavora, possiamo pure, diciamo, in qualche modo discuterlo, contrattarlo, ma come si lavora non si mette in discussione. Per cui se l'operaio se deve dipingere di giallo e venire vestito in certo modo non è assolutamente discutibile, e invece questo è l'aspetto oscuro che andrebbe, diciamo, investigato, ecco. Sì, no, io sostanzialmente, come lo dicevo prima, sono d'accordo con te che poi probabilmente questo è il punto più, diciamo, importante da andare a indagare, diciamo, su cui riflettere, diciamo, quando poi si parla di sicurezza sul luogo di lavoro. È vero, diciamo, dalla poca esperienza che, diciamo, cioè io anche in questa trasmissione, mi sembra che, diciamo, la ristrutturazione che è avvenuta nel lavoro, diciamo che come hai spiegato tu, diciamo, ha più puntato al lato della produzione, no? Quindi il prodotto finito, la qualità e tutta questa retorica è stata accompagnata anche da una retorica che poi insomma aveva quello come obiettivo, e tu hai spiegato bene che poi tutto il resto invece l'ha accantonato a favore poi delle ristrutturazioni patronali, però è stata accompagnata anche da un'altra retorica paradossalmente, che invece a differenza di prima ci sono nelle industrie, si introduce l'organizzazione del lavoro, diciamo la metrica del lavoro è accompagnata dalla valutazione dei rischi, delle posture e dei movimenti, piuttosto che, no, i luoghi di lavoro sono come una grande famiglia, diciamo, questa ristrutturazione si è accompagnata, diciamo, un clima anche col contributo prezioso in questo che hanno dato ai padroni dei sindacati confederali, un po' tutti senza distinzione, diciamo, si è creata, diciamo, un clima intorno, diciamo, alle questioni lavorative che sembrava che appunto tutto sommato anche un po', no, tra i miei compagni, tra insomma le persone di sinistra, a un certo punto si è immaginati che viviamo in un'era per cui dai il lavoro tutto sommato non era più brutto come quello di una volta, ecco, e oggi invece probabilmente ci dobbiamo riscontrare più forza con tutto quello che sono state delle effettivamente delle cavolate che sono state dette negli ultimi 20 anni su questo, certo. e oggi le scontiamo. Comunque a me ha fatto piacere un po' questo intervento, e diciamo questo lo dico anche ai compagni di questo studio, secondo me in questa trasmissione, dandoci magari una periodicità, questo argomento potrebbe essere, diciamo, un argomento interessante di cui trattare. Sì, se riusciamo insomma, come vi pare, soprattutto a renderlo diciamo comprensibile alla massa, nel senso che si capisca subito qual è il problema, perché qui spesso le leggi, insomma, se voi avete provato a leggere anche la 626 e tutte le altre, dopo due pagine proprio ti invitano a chiuderle, non ne puoi più, sono complicate, hanno continui rimandi, non si capisce cosa vanno cercando. cioè la sicurezza del lavoro andrebbe proprio ridefinita nei suoi cardini base, nei suoi principi base. Che vuol dire la sicurezza del lavoro? Non è, come dicevo, semplicemente per esempio la sicurezza dei luoghi di lavoro o la sicurezza del vestiario, mettetevi l'elmetto, quello che... ma se io pure mi metto l'elmetto, ma durante le mie 8 ore faccio per 4 ore, 5 ore, quello che sia, dei lavori, dei movimenti sbagliati, che viceversa sono, portano con sé una nocività intrinseca, nel senso che prima o poi per una distrazione nel fare quel movimento mi posso ritrovare con una mano in un ingranaggio o con la testa sotto un carico che si muove, e questo non lo analizza nessuno. C'entra anche tante cose, c'entra l'ergonomia, c'entra la distribuzione del percorso che uno fa, insomma, e sarebbero tante le cose da valutare, e in tempi passati anche i compagni di allora Medicina Democratica, insomma, si riuscì a fare qualcosa. Oggi siamo purtroppo veramente, come dicevate anche voi, a mettere le toppette a quelle, a quell'altro, insomma, a cercare di rabberciare una situazione di cui il decreto Sacconi poi, insomma, rappresenta il massimo livello di attacco per certi versi, insomma, ecco. Per cui fate bene se ci riuscite a seguitare sicuramente su questo argomento, insomma, ecco. Grazie, non vi voglio togliere altro tempo. No, figurati, grazie a te dell'intervento, e insomma ne riparleremo sicuramente. Certo. Ciao. A presto, ciao.